ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. Di sera, le 11. Comincio a credere che stia diventando un'amicizia importante. Un'amicizia, nel senso più profondo del termine. Mi sento profondamente seria e non è una serietà che si libra sopra la realtà e che più tardi potrà sembrarmi esagerata e innaturale, perlomeno, non credo. Quando ho ricevuto la sua lettera oggi pomeriggio alle 6, ero appena arrivata da Gorsel, fradicia di pioggia. Non ho sentito nessun contatto con le sue parole. Ero stanca morta, fisicamente e spiritualmente. Non sapevo bene che farmene. Poi mi sono raggomitolata sul mio letto e ho studiato con attenzione la ben nota calligrafia. E allora mi sono resa conto di quanto grande sarà il peso di esse sullo sviluppo ulteriore del mio spirito, purché io continui a confrontarmi seriamente e onestamente con lui e con me stessa e con i numerosi problemi che per me nasceranno sempre dal nostro rapporto. Carico di significato. Devo avere il coraggio di vivere la vita con la carica di significato che essa pretende, senza per questo considerarmi pesante o sentimentale o innaturale. E non devo considerare esse come un fine, ma come un mezzo per continuare a crescere e a maturare. Non devo cercare di possederlo. È vero che la donna cerca la concretezza del corpo e non l'astrattezza dello spirito. Per la donna il centro di gravità è l'uomo singolo, per l'uomo è il mondo. Chissà se la donna è in grado di spostare questo centro senza violare se stessa, senza far violenza alla propria natura. Questo e molti altri interrogativi sono stati sollevati dalla sua lettera, che era molto stimolante per me. Stare dalla parte di un altro essere umano, l'amicizia, deve anche essere giusta. Mercoledì. Un'oggettività flemmatica e gelida è naturalmente impossibile col mio carattere. Ho troppo sentimento. Ma non vado più in pezzi per questo. Dan è caduto dall'aeroplano. Uno dei tanti giovani pieni di vita e ricchi di promesse che muoiono giorno e notte. Non so che cosa pensare. Con tutto il dolore che ho intorno, comincio a vergognarmi di prendere sul serio i miei umori. Eppure devi continuare a prenderti sul serio. Devi rimanere il centro. E in qualche modo devi venire a capo dei fatti di questo mondo. In nessuna situazione puoi chiudere gli occhi. Devi confrontarti con questi tempi orribili e cercare una risposta alle numerose questioni di vita e di morte che essi ti pongono. E allora, forse, troverai una risposta ad alcune di esse, non solo per te, ma anche per gli altri. Sta di fatto che devo vivere e che devo affrontare ogni cosa. A volte mi sento come un palo ritto in un mare infuriato, fra le onde che lo battono da ogni parte. Ma io rimango ben ferma e gli anni mi passano sopra. Voglio continuare a vivere pienamente. Voglio diventare il cronista di tanti fatti di questo tempo. Al piano di sotto lamenti e urla. Papà grida, vattene allora, e sbatte le porte. E anche questo va digerito ed un tratto piango. Dunque non sono ancora così oggettiva. La vita è proprio impossibile in questa casa, ma coraggio, andiamo avanti. Sì, un cronista, dicevo. Io noto che alla mia sofferenza personale si accompagna sempre una curiosità oggettiva, un interesse appassionato per tutto ciò che riguarda questo mondo, i suoi uomini, i moti della mia anima. A volte credo che sia questo il mio compito: chiarire nella mia testa e col tempo descrivere tutto ciò che accade intorno a me. Povera testa e povero cuore. Quante cose vi toccherà digerire. Ricca testa e ricco cuore. Avete però una bella vita. Già non piango più, ma ho la testa che gira in modo terribile. Qui è un inferno. Per rappresentarlo dovrei saper scrivere già molto bene. In ogni caso, io vengo da questo caos ed è mio compito portarmi più in alto. Esse lo chiama costruire con nobile materiale, quel tesoro. A volte siamo così distratti e sconvolti da ciò che capita che poi fatichiamo a ritrovare noi stessi. Eppure si deve. Non si può affondare per una sorta di senso di colpa in ciò che ci circonda. È in te che le cose devono venire in chiaro. Non sei tu che devi perderti nelle cose. Una poesia di Rilke è altrettanto reale e importante di un ragazzo che cade dall'aeroplano. Ricordatelo bene. Sono tutte cose che fanno parte di questo mondo e non si può ignorarne una per favorirne un'altra. Va a dormire. Le numerose contraddizioni della vita devono essere accettate. Tu invece vorresti fonderle in un unico insieme e in qualche modo semplificarle dentro di te. Così ti semplificheresti pure la vita. Ma il fatto è che la vita è composta di contraddizioni, che queste vanno accettate tutte come sue parti integranti e che non si può accentuarne una a spese di un'altra. Lascia che il tutto giri e forse diventerà ancora un unico insieme. Come ti ho già detto, dovresti andare a dormire invece di scrivere cose che non sei in grado di formulare. Di sera, le 11. Ecco un momento di pace, di bonaccia. Non ho più bisogno di pensare a nulla. Può anche dipendere dalle 4 aspirine, naturalmente. Da un dialogo fra me e papà, lungo il Zingel. Io compiango ogni donna che ha a che fare con Misha. Papà, ormai tuo fratello è in circolazione. Che cosa ci puoi fare? Agosto 1941, sabato sera. Bisogna che registri di nuovo esattamente i miei umori. Sta diventando troppo brutto. Un semplice, stupido raffreddore non può colorare di nero tutto il modo di vedere la vita. È esagerato. Com'è successo? Andava così bene giovedì sera sul treno da Arnhem a qui. Dietro i finestrini dello scompartimento la notte cresceva quieta, ampia e maestosa. Il trenino era affollato di operai animati e pieni di vita. Ero seduta nel mio angolino in penombra. Con l'occhio destro guardavo la natura quieta e col sinistro le teste espressive e i gesti pittoreschi delle persone. Tutto mi andava bene, la vita come gli uomini. Poi c'era stato quel lungo tratto a piedi dalla Amstel Station per la città quasi buia e come incantata. D'un tratto avevo avuto la sensazione di non essere sola, ma in due, come se fossi composta di due persone che si stringessero affettuosamente e che stessero bene così, al caldo. Un forte contatto con me stessa e perciò un buon caldo dentro, un senso di autosufficienza. Chiacchieravo animatamente fra me e me e trotterellavo con gran piacere per tutti quei viali lungo l'Amstel, completamente immersa in me stessa. Constatavo con un certo piacere che mi facevo proprio buona compagnia e che andavo proprio d'accordo con me stessa. E il giorno dopo sentivo allo stesso modo. E ieri pomeriggio, mentre ero alla ricerca di quel formaggio per conto di esse e attraversavo quella bella parte di Amsterdam Sud, mi sentivo come un vecchio ebreo che avanza avvolto in una nuvola. C'è di sicuro nella mitologia un ebreo che avanza avvolto in una nuvola. Era la nuvola dei miei pensieri e sentimenti ad avvolgermi e accompagnarmi. Ci stavo ben calda e protetta e sicura. E ora ho un gran raffreddore di testa e non sento altro che svogliatezza e malessere e antipatia. L'antipatia che provo in questi casi per persone a cui normalmente voglio bene è incomprensibile. È un atteggiamento negativo, distruttivo, critico, eccetera, eccetera. Strano però che tutto questo possa essere causato da un semplice naso chiuso. L'antipatia per il prossimo non è da me. Quando mi sento così poco bene, dovrei subito fermare la macchina dei miei pensieri, che invece si mette a correre, a buttar per aria tutto quello che può. In ogni caso è saggio andarmene a letto. Mi sento proprio un po' malata. Forse è un bene che le tue azioni siano ora diverse dai tuoi pensieri. Stasera doveva ritornare Hans e questa prospettiva mi seccava moltissimo. Non appena mi prende quell'antipatia, lui ne fa subito le spese. Senza dubbio, perché vive nelle mie immediate vicinanze. Così vedevo male il suo ritorno. Ruminavo sul fatto che era un gran seccatore, che era noioso, lento. E invece è tornato bello, fresco e vigoroso dal suo campeggio e barca a vela e mi sono accorta che parlo molto volentieri e animatamente con lui, che la sua faccia abbronzata con quei fedeli ancora un po' vaghi occhi azzurri mi piace e mi interessa, che sono pronta ad alzarmi a preparargli un po' di minestra, che poi chiacchiero animatamente con lui e che in fondo mi piace, come in fondo mi piacciono tutte quante le creature di Dio. Non credo che ci fosse qualcosa di forzato nel mio comportamento. Credo piuttosto che fosse la mia irritazione interiore a essere innaturale. Non è il mio genere, infatti. E allora devo controllarmi un pochino. Il che significa che stasera, quando non sono più in grado di lavorare o di leggere, è meglio che vada a dormire. 26 agosto, martedì sera. Dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla. Più sovente essa è coperta di pietre e sabbia. Allora Dio è sepolto. Allora bisogna dissotterrarlo di nuovo. Mi immagino che certe persone preghino con gli occhi rivolti al cielo. Esse cercano Dio fuori di sé. Ce ne sono altre che chinano il capo nascondendolo fra le mani. Credo che cerchino Dio dentro di sé. Venerdì mattina, le 9. Mi sento come uno che si stia rimettendo da una grave malattia, con la testa abbastanza leggera e con le gambe ancora un po' incerte. Era proprio brutto ieri. Non vivo abbastanza semplicemente. Mi abbandono troppo a sfrenatezze, a baccanali dello spirito e forse mi identifico troppo con quel che leggo e studio. Dostoevskij mi distrugge ancora, in un modo o nell'altro. Devo proprio diventare più semplice, lasciarmi vivere un po' di più, non pretendere di vedere già dei risultati. Ora conosco la mia cura, accoccolarmi in un angolino e ascoltare quel che ho dentro, ben raccolta in me stessa. Tanto, col pensiero, non ci arriverò mai. Pensare è una bella, una superba occupazione quando studi, ma non puoi pensarti fuori da uno stato d'animo penoso. Allora devi fare altro, farti passiva e ascoltare, riprendere contatto con un frammento d'eternità. Martedì mattina, 9 settembre. Esse è il motore di moltissime donne. Tide lo chiama in una sua lettera la mia Mercedes, la mia grande, cara, buona Mercedes. Sopra di lui abita la piccola. Esse dice che quando Henriette fa la lotta con lui è proprio come un gattone che si muove con prudenza per paura di far male. Venerdì sera le aveva telefonato e la sua voce semplicemente cantava mentre andava incontro a quella ragazzina di 18 anni. Sì, Henriette. Intanto con la destra mi accarezzava il viso e sul tavolino c'era la lettera della ragazza che vuol sposare, con le parole «Yul, mio caro». Io continuavo a guardarle. «Sono così triste, così terribilmente triste in questi ultimi giorni. Perché poi?» «Non sono triste proprio tutto il tempo. Ogni volta riesco a tirarmene fuori, ma ogni volta ci ricasco. Non ho mai incontrato una persona così ricca di amore, forza, incrollabile fiducia in se stessa come esse. Quel venerdì sera mi aveva detto, all'incirca, se io riversassi tutto il mio amore e la mia forza su una persona sola, la distruggerei. A volte provo una sensazione simile, come se venissi sepolta sotto il suo peso. Non so. Certe volte mi sembra che dovrei correre fino all'altro estremo della terra per liberarmi da lui. Allo stesso tempo so che devo risolvere le cose qui, presso di lui e con lui. Altre volte non mi dà alcun problema. Va tutto così bene, allora. E invece adesso mi fa sentir malata. Com'è possibile? Dopotutto non è una persona enigmatica o complicata. È forse l'enorme quantità di amore che possiede e dispensa un infinito numero di persone e che io vorrei fosse tutto per me? Ci sono dei momenti in cui è così, in cui vorrei che tutto il suo amore si concentrasse su di me. Ma non è un desiderio troppo fisico o troppo personale. Non so proprio come fare con quest'uomo. Proverò a ricordare quel venerdì sera. Avevo avuto la sensazione di essere penetrata dentro all'enigma, o piuttosto al non enigma di quell'uomo, come se lui stesso mi avesse offerto la chiave della sua personalità segreta. Per qualche giorno mi ero portata esse ben dentro nel cuore. Credevo che non l'avrei perso mai più. Perché sono indicibilmente triste, allora? Perché non ho più nessun contatto con lui? Perché vorrei fare a meno di lui? In questo momento è proprio come se esse fosse troppo per me. Com'era quel venerdì? A volte, quando mi è seduto di fronte su quella seggiolina, quadrato e dolce, con un che di opulento e sensuale e insieme così umano e pieno di benevolenza, devo pensare a un imperatore romano nella sua vita privata. Il perché lo ignoro. Allora c'è qualcosa di voluttuoso in tutta quella figura, ma insieme un calore e una bontà infiniti, troppi per una persona sola. Perché allora devo pensare a un romano della decadenza? Proprio non saprei. Quel mal di stomaco, quell'oppressione, quel senso di avere un nodo dentro e di venir schiacciata sotto un grosso peso sono certamente il prezzo che debbo pagare ogni tanto per la mia avidità di conoscere tutto della vita e di penetrare dappertutto. A volte però è troppo. Dal test di Taco Kuiper era venuto fuori una persona che pretendeva di vivere ogni cosa della vita, ma che sapeva poi anche assimilarla. Sarà così. Sarà che gli ingorghi interiori fanno parte di questo processo, ma devono pure essere ridotti a un minimo, altrimenti la mia vita diventa impossibile. Ieri, mentre tornavo a casa in bicicletta, così indicibilmente triste, col cuore di piombo, e mi sentivo passare gli aeroplani sulla testa, ho provato quasi un senso di liberazione al pensiero che una bomba avrebbe potuto mettere fine alla mia vita. Ultimamente mi capita spesso di trovare che non vivere è più facile di vivere. Giovedì mattina, le 9. Noi donne, noi stupide, idiote, illogiche donne, noi cerchiamo il paradiso e l'assoluto. E col mio cervello, col mio eccellente cervello, io so bene che l'assoluto non esiste, che ogni cosa è relativa e infinitamente sfumata, in perpetuo movimento, e proprio per questo è così interessante e seducente, ma anche così dolorosa. Noi donne vogliamo eternarci nell'uomo. Io voglio che lui mi dica: tesoro, tu sei l'unica per me e ti amerò in eterno. Ma questa è una favola. E fin tanto che non me lo dice, tutto il resto non ha senso e non esiste. E il buffo è che non lo voglio affatto. Non vorrei avere esse come eterno e unico uomo, però pretendo il contrario da lui. Forse pretendo un amore assoluto proprio perché io non ne sono capace? E poi, desidero sempre lo stesso livello di intensità, mentre so bene, per mia propria esperienza, che una cosa simile non esiste. Ma non appena noto in un altro una temporanea caduta, mi do alla fuga. Chiaro che in ciò entra un senso di inferiorità, qualcosa come se io non riesco ad attirarlo al punto da farlo continuamente spasimare per me, preferisco che non ci sia niente. È maledettamente illogico, devo smetterla. Io stessa non saprei che fare se qualcuno spasimasse tutto il tempo per me. Mi darebbe un senso di oppressione, di noia e di costrizione. Etti, Etti. Ieri sera lui aveva detto, tra l'altro, «Credo che per te io sia un primo passo verso un amore veramente grande». È strano. Io sono stato un primo passo per molte persone. Ecco la tua malattia. Pretendi di rinchiudere la vita nelle tue formule, di abbracciare tutti i fenomeni della vita con la tua mente, invece di lasciarti abbracciare dalla vita. Com'era già? Va bene che tu affacci la tua testa in cielo, ma non che tu cacci il cielo nella tua testa. Ogni volta vorresti rifare il mondo, invece di goderlo con me. È un atteggiamento alquanto dispotico. 6 ottobre, lunedì mattina, le 9. Ieri, a metà giornata, è caduta una frase che mi è rimasta impressa. Ho chiesto a Annie: «Tide, allora non hai mai voluto sposarti?» E la sua risposta è stata: «Dio non mi ha mai mandato un uomo». Se io dovessi adattare questa risposta a me stessa, dovrei dire: per vivere in armonia con le mie sorgenti più profonde, probabilmente non dovrei sposarmi. In ogni caso non posso rompermi la testa su questo problema. Se ascolto onestamente la voce che mi porto dentro, a un certo punto saprò se un uomo mi è stato mandato da Dio oppure no. Ma non debbo pensarci troppo. Oppure transigere, o sposarmi ugualmente per tante teorie sbagliate. Devo avere fiducia, sapere che seguo una determinata strada, non chiedermi: sarò poi molto sola se ora non prendo marito? Sarò in grado di guadagnarmi il pane? Non diventerò una vecchia zitella? Che dirà il mondo intorno? Mi compatirà per il fatto che non ho ancora un marito? Ieri sera ho chiesto a Ann, a letto: tu credi che una persona come me dovrebbe sposarsi? Sono una vera donna, io? Il sesso non è poi così importante per me, anche se può sembrare il contrario. Lasciare che gli uomini si avvicinino attratti da quell'impressione e poi non essere in grado di soddisfarli non è forse un inganno? Io non sono il prototipo della donna, perlomeno non sessualmente. Non sono più una vera femmina e a volte ne provo un senso di inferiorità. Quel che ho di veramente fisico è per molti versi incrinato o indebolito da un processo di spiritualizzazione e quasi me ne vergogno a volte. Le cose veramente primordiali in me sono i sentimenti umani, una sorta di amore, di compassione elementari che provo per le persone, per tutte le persone. Non credo di essere adatta a un uomo solo. A volte mi sembra un amore quasi un po' infantile. Non potrei neppure essergli fedele, non per via di altri uomini, ma perché io stessa sono composta di tante persone diverse. Ho 27 anni e mi sembra di aver già amato o di essere già stata amata abbastanza. Mi sento già molto vecchia. Probabilmente non è un caso che l'uomo con cui convivo già da 5 anni abbia un'età tale da rendere impossibile un futuro in comune, e che il mio miglior amico conti di sposarsi con una ragazza che ora è a Londra. Non credo che questa sarà la mia strada, un unico uomo e un unico amore. Però ho una forte inclinazione erotica e sento un gran bisogno di carezze e di tenerezza. E queste ci sono sempre state intorno a me. Mi rendo conto che non riesco a esprimere i sentimenti che ho avuto stanotte e stamattina. Dio non mi ha mai mandato un uomo. Lunedì mattina, 20 ottobre. Essi mangiarono a sazietà, si impigrirono e s'attaccarono sempre più fortemente a questa solida terra. Il tutto in seguito a una fetta di pane imburrato con pomodoro, un'altra con sciroppo di mela e 3 tazze di tè con vero zucchero. Ho una tendenza all'ascesi, alla lotta contro fame e sete, freddo e caldo. Non so che romanticismo sia questo. Non appena incomincia a far veramente un po' freddo, vorrei solo infilarmi nel letto e non uscirne più. Ieri sera ho detto a esse che tutti quei libri erano pericolosi per me, perlomeno certe volte, che a forza di leggere diventavo così pigra e passiva e che allora non volevo far nient'altro che leggere ancora. Della sua risposta ricordo una parola precisa: degeneranti. A volte faccio così fatica a costruire l'intelaiatura della mia giornata. Alzarmi, lavarmi, far ginnastica, mettermi delle calze senza buchi, apparecchiare la tavola, in breve orientarmi nella vita quotidiana, che non mi rimane quasi più energia per altre cose. E se allora mi alzo per tempo come un qualunque cittadino, sono fiera di aver operato chissà quale miracolo. Eppure, fin tanto che la disciplina interiore non è a posto, quella esteriore rimane importantissima per me. Se io dormo un'ora di più alla mattina, questo non significa che io abbia dormito bene, ma che non so affrontare la vita e che faccio sciopero. Dentro di me c'è una melodia che a volte vorrebbe tanto essere tradotta in parole sue, ma per la mia repressione, mancanza di fiducia, pigrizia e non so che altro, rimane soffocata e nascosta. A volte mi svuota completamente e poi mi colma di nuovo di una musica dolce e malinconica. A volte vorrei rifugiarmi con tutto quel che ho dentro in un paio di parole, ma non esistono ancora parole che mi vogliano ospitare. È proprio così. Io sto cercando un tetto che mi ripari, ma dovrò costruirmi una casa, pietra su pietra. E così ognuno cerca una casa, un rifugio per sé. E io mi cerco sempre un paio di parole. A volte mi sembra che ogni parola che vien detta e ogni gesto che vien fatto accrescano il grande equivoco. Allora vorrei sprofondarmi in un gran silenzio e vorrei anche imporre questo silenzio agli altri. Sì, a volte qualunque parola cresce malintesi su questa terra troppo loquace. Fa ciò che la tua mano per caso si trova a fare e non pensare al poi. Quindi, adesso si fa un letto, si portano le tazze in cucina e poi si vedrà. Tide riceve i girasoli di oggi. La mia ragazzina deve imparare un po' di pronuncia russa. E quello schizzoide che supera le mie capacità di comprensione deve essere studiato a fondo. Fa ciò che la tua mano e il tuo spirito si trovano a fare. Tuffati in ogni ora e non metterti subito a ruminare coi tuoi pensieri, le tue parole, le tue preoccupazioni sulle ore successive. Devi riprendere in mano la tua educazione.